questo sono io. Vi trasmettiamo ora il meglio di me, confezionato a misura per te. Salvo errori e omissioni. Questo sono io. Va ora in onda il peggio di me, che ho conservato lontano da te, per non commettere errori. Penso a migliorarmi domani e consuetudine, legato e libero, docile e isterico, complesso e semplice, distante e complice, legato e libero, docile e isterico, complesso e semplice. Distante e complice, questo sono io, che cambio strada a un incrocio da te, che torno indietro soltanto perché non so capire gli errori. Questo sono io, che resto a casa in prigione con me, a consumare il mio tempo perché ne possa uscire